La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa. L'articolo 113 riguarda la tutela contro gli atti della pubblica amministrazione. Infatti l'articolo recita che contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale per i diritti e gli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa. Cosa significa? Significa che quando un cittadino ha di fronte un atto della pubblica amministrazione, ha comunque diritto a una tutela giurisdizionale. La pubblica amministrazione non deve avere un regime privilegiato. Noi sappiamo che tradizionalmente contro gli atti della pubblica amministrazione esistevano esclusivamente i ricorsi amministrativi, cioè si poteva fare un ricorso che veniva deciso dalla stessa pubblica amministrazione. Ovviamente per il cittadino poteva venir meno la garanzia di terzietà e imparzialità, cioè nel senso che si poteva pensare che comunque l'amministrazione decideva sempre preferibilmente a favore dell'amministrazione stessa. Ecco allora l'importante cesura costituzionale, cioè ribadire per garanzia costituzionale che devono esserci anche dei ricorsi giurisdizionali contro gli atti della pubblica amministrazione, nel senso che bisogna ricorrere a un giudice, sicuramente terzo. Il sistema di giustizia amministrativa nasce già ben prima della Costituzione, nasce con l'istituzione delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. Tutti ricorderanno Silvio Spaventa e i suoi discorsi di fine Ottocento su questo tema. E poi la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione viene completata nel 1971 con l'istituzione dei tribunali amministrativi regionali, i cosiddetti TAR, comunemente. Ora, come specifica la Costituzione, avverso gli atti della pubblica amministrazione si tutelano i diritti e gli interessi legittimi. Perché? Perché rispetto alla pubblica amministrazione ciascun cittadino ha posizioni soggettive differenziate. Mi spiego. Prendiamo l'iscrizione a una scuola, a un'università. Il cittadino ha il diritto a essere iscritto alla scuola, non ha certo il diritto a essere promosso alla fine dell'anno scolastico. Cosa voglio dire? Voglio dire che rispetto all'iscrizione si forma un diritto perfetto, un diritto soggettivo, cioè una posizione giuridica piena. Rispetto invece all'essere promossi a scuola o all'università, c'è soltanto un interesse legittimo, cioè c'è l'interesse a che l'amministrazione agisca in maniera legittima e che quindi mi giudichi in condizioni di parità, terzietà, imparzialità, senza alcun favoritismo. Ecco allora che rispetto agli atti della pubblica amministrazione il cittadino può tutelare sia i diritti sia gli interessi legittimi e a seconda dei casi andrà al giudice ordinario o al giudice amministrativo.